Il terzo anello, ad alta voce, I viceré, di Federico De Roberto. Ferdinando, Chiara, Lucrezia, tutti e tutte, ricevevano la loro parte di rallegramenti, mentre il notaio e il giudice compivano le formalità del verbale. Ma Don Blasco, che appena finita la lettura del testamento, aveva ripreso a rodersi le unghie con più fame di prima, gironzolando intorno come un calabrone, acchiappò Ferdinando mentre il presidente gli stringeva la mano e lo trasse nel vano di una finestra. «Spogliati! Spogliati! Siete stati spogliati! Spogliati come in un bosco! Rifiutate il testamento! Domandate quel che vi tocca!» La zitellona non esprimeva il proprio parere, non rispondeva al cicaleccio degli astanti. «Il giusto! Tutti trattati bene! Un modello di testamento!» «Rubati del vostro! Spogliati! Ridotti in camicia!» diceva frattanto Don Blasco alla nipote Chiara che era riuscito ad acchiappare. «Per favorire quello scapestrato, che neppur si diede la pena di venirla a vedere prima che crepasse, e quell'altra villana che è venuta a ficcarsi qui dentro!» Il monaco fulminava di sguardi rabbiosi la contessa Matilde. «E vi lasciate rubare così? Qui bisogna agire subito, spiattellare chiaro e tondo che rifiutate il testamento, che domandate quel che vi viene!» E il principe finalmente, ridottosi in un vano di finestra con lo zio Duca. «Ha udito, vostra eccellenza?» gli diceva con riso amaro. «Quel che pareva impossibile è vero. La mia famiglia è rovinata!» «Non credevo neppur io!» esclamava il duca. «Che gli avrebbe fatto una posizione privilegiata tra i legittimari, sì, ma coerede!» Da quel giorno, Don Blasco non ebbe più pace. A lui come a lui che l'eredità andasse spartita in un modo piuttosto che in un altro, importava meno d'un fico secco. Ma fin da quando egli era entrato al convento, non avendo più affari propri, la sua costante occupazione era stata di ficcare il naso in quelli degli altri. Ragazzo, egli aveva visto i bei tempi di casa Uzeda, quando suo padre, il principe Giacomo XIII, spendeva e spandeva regalmente, con 20 cavalli in stalla, un usciame di servitori e un'intera corte di lavapiatti che prendevano posto alla tavola imbandita, giorno e notte. Allora, il futuro cassinese non aveva udito altri discorsi fuorché quelli delle straordinarie ricchezze di suo padre, dei grandi feudi che possedeva, delle rendite che riscoteva da mezza Sicilia. E gliene era naturalmente venuta una smania di godimenti, un'ingordigia di piaceri che ancora non sapeva precisare egli stesso. Quando un bel giorno fu messo al noviziato di San Nicola e poi costretto a pronunziare i voti. Tanto più che gli altri fratelli cadetti, il secondogenito Gaspare, Duca d'Orago e lo stesso Eugenio, restavano al secolo, con pochi quattrini in verità, ma con la possibilità di procacciarsene, liberi del tutto a ogni modo e padroni di vestirsi secondo la moda, non costretti a portar la tonaca che pesava a Don Blasco più che a un servo la livrea. Egli ebbe tanto più campo di sfogarsi, quanto che, venuti i nodi al pettine, distrutta in poco tempo la fortuna del padre, il principino Consalvo VII fu ammogliato a quella Teresa Risi che entrò a far da padrona in casa Uzeda. Aveva quasi 30 anni la promessa, 10 più di Consalvo VII, essendo nata nel 1795 e non avendo potuto trovare per molto tempo un partito conveniente. Il suo carattere, già forte, s'era inasprito nella lunga attesa del matrimonio. E dalla grande ricchezza, dalla potenza quasi feudale esercitata dal padre nel paesetto nativo, le veniva un bisogno di comando, d'autorità, di supremazia, che la volle esercitare nella sua nuova casa. Thank you. La storia di Don Lodovico rassomigliava molto a quella di Don Blasco, con questa differenza, tuttavia, che mentre Don Blasco era cadetto del cadetto, Lodovico aveva dinanzi a sé soltanto il principe, e come duca d'Oragua avrebbe potuto sperare, se non dalla madre, almeno da qualche zio e quattrini occorrenti a portar con decoro quel titolo. Poiché era inteso che un altro Uzeda in questa generazione doveva entrare a San Nicola, la ragione e la tradizione designava il terzogenito, Raimondo, ma Donna Teresa, per far passare la propria volontà su tutte le leggi umane e divine, invertì l'ordine naturale e, avendo presa a proteggere Raimondo sopra gli altri fratelli, lo lasciò al secolo facendolo conte e cominciò invece a lavorare perché il duchino Lodovico sentisse la vocazione. Quando la madre gli domandava «Tu che vuoi divenire?», il bambino fu avvezzo a rispondere «Monaco di San Nicola». Padre Don Lodovico s'accorse del giuoco di cui era stato vittima troppo tardi, quando vide che le miserie lamentate dalla madre erano mentite e che il posto a cui lo avevano costretto a rinunziare toccava al fratello Raimondo. Ma non era più tempo di tornare indietro. Lo scapolare e la cocolla gli sarebbero pesati sulle spalle fino alla morte. La ribellione, lo sdegno e l'odio, scatenatisi nell'animo suo, furono tanto più violenti di quelli provati dallo zio, quanto meno egli era capace, per il lungo abito della finzione e della mortificazione, di sfogarsi a parole come Don Blasco. Assetato di potere, Don Blasco voleva anch'egli essere priore d'abate, ma la vita scandalosa, il carattere violento, l'ignoranza supina gli rendevano se non impossibile perlomeno difficilissimo l'appagamento di quell'ambizione, tanto che non prima di 40 anni era stato decano. Veder dunque a quel posto il nipote, col guscio ancora in capo, lo fece uscir fuori dalla grazia di Dio. Né gli altri nipoti che il monaco adesso difendeva in odio alla morta, provocandoli a rifiutare il testamento, avevano goduta mai le sue buone grazie. Bastava già che fossero figli di colei che egli considerava come sua personale nemica. Ma poi ai suoi occhi avevano torti particolari tutti quanti, a cominciare da Chiara e da suo marito. La gran colpa di quest'ultimo consisteva nell'essere stato scelto dalla principessa come genero ed aver voluto bene a Chiara, nonostante l'avversione dimostratagli dalla ragazza. Il marchese, vista la ragazza di tanto in tanto sotto lo scialle in chiesa, se n'era innamorato e la principessa, determinatasi di dargli la figliuola, lo aveva messo in casa. Ma scoraggiato dalla fredda accoglienza e dalle ostinate repulse di Chiara, persuaso da parenti ed amici che faceva una pazzia a sposare per forza chi non lo voleva, egli si sarebbe ritirato in buon ordine se Donna Teresa, che quando gli pigliava partito neppure il diavolo la faceva andare indietro, non gli avesse ingiunto di rimanere al suo posto. E al marchese, il quale, preso dagli scrupoli, veniva a restituire la sua parola. «No, signore», diceva, «ad a sposarti, perché così voglio. Se lei è degli Uzeda, io sono dei Risà, e vedrai che cangerà». Ella sapeva com'erano fatti tutti quegli Uzeda. Quando si incaponivano in un'idea, neanche a spaccargli la testa li potevano rimuovere. Erano dei viceré. La loro volontà doveva far legge. Ma da un giorno all'altro, quando uno meno se l'aspettava, senza perché cangiavano di botto. Dove prima dicevano bianco, affermavano poi nero. Mentre prima volevano ammazzare una persona, questa diventava poi il loro migliore amico. La principessa gli aveva dato Chiara per molte ragioni. Prima di tutto, le era nata dopo i 4 maschi, una terza figlia. Quindi ella aveva ragionato o sragionato, a giudizio di Don Blasco, così. Delle 3 la prima monaca, la seconda marito, l'ultima in casa. Ora il marchese, innamorato della ragazza, prometteva non solo di prenderla senza dote, ma di prestarsi anche ad una piccola commedia. Se fermo proposito della madre era che la fortuna della casa non fosse intaccata dalle femmine, il suo orgoglio di principessa di Francalanza non poteva consentire che la gente vantasse la generosità del genero nel prendersi Chiara senza un balocco, quasi togliendola all'ospizio delle trovatelle. Per questo, nei capitoli matrimoniali, ella aveva costituito alla figlia una rendita di 211 annue. Così diceva l'atto registrato dal notaio Rubino, e così sapevano tutti. Ma poi il marchese le aveva rilasciato un'apoca, accusando ricevuta dell'intero capitale di 4.000 onze, delle quali non aveva visto neppure 3 denari. La collera del monaco fu tale da procurargli uno stravaso di bile, ma col tempo egli si era acchetato, aspettando la morte della cognata per ridiscendere in campo. Crepata costei, finalmente, e aperto quel bestiale testamento, il furioso cassinese dimenticava adesso la bestialità di Federico e di Chiara per dar loro un nuovo assalto e per deciderli a muoversi. «Tua madre era una bestia!» gridava il monaco. «Più di te! Qual è stata la volontà di tua madre? Quella di rovinarvi tutti per amore di Raimondo e per odio di Giacomo! Pazza, tu e lei! Manata di pazzi tutti quanti!» Così la nipote voltò le spalle allo zio. Questi mandò a farsi friggere la nipote e non mise più piede in casa di lei, dandosi ad altissima voce del triplice minchione per lo stupido interesse portato verso quel paio di animali. E allora, aspettando un'occasione per tornare alla carica contro quelle bestie, cominciò a prendersela con Ferdinando. A qualunque ora andasse a cercarlo lassù alla Pietra dell'Ovo, lo trovava sempre solo con la pialla o la sega o con la zappa in mano, intento a lavorare da stipettaio o da giardiniere, in maniche di camicia, come un operaio o un contadino. Un giorno per San Ferdinando, Don Cono Canala gli regalò Robinson Crusoe. Egli lo divorò da cima a fondo e restò sbalordito dalla lettura come da una rivelazione. Da quel momento la sua selvatichezza s'accrebbe. Il suo unico e costante desiderio fu quello di naufragare in un'isola deserta e di provvedere da sé al proprio sostentamento. Cominciò allora a fare esperimenti di cultura nel giardino e nella terrazza del palazzo, e gli venne il gusto della campagna, che la principessa assecondò. Gli aveva messo il soprannome di Babbeo per quelle sue sciocche manie, ma comprendendo che favorivano i propri piani, gli abbandonò alla Pietra dell'Ovo prima la brulla chiusa delle ginestre e dei fichi d'India, poi, col tempo, maturando il suo piano della generale spoliazione a favore del primogenito e di Raimondo, tutto il podere, stipulando però un contratto in piena regola, col quale il figliuolo obbligavasi di pagarle 500 onze l'anno sui frutti del fondo, restando a lui tutto il di più. Fin dal primo anno, però, egli non aveva potuto pagare interamente la rendita promessa alla madre. Restò a dargliene una buona metà che la principessa notò regolarmente a suo debito a Don Blasco, il quale gli si metteva le costole per indurlo a ribellarsi. «Come?» diceva candidamente, lasciando di piallare o di rimondare. «Non è abbastanza quello che ho avuto?» «Ma ti tocca il triplo, perlomeno. Sei stato truffato con tutti gli altri. Ti tocca in rate uguali con tutti gli altri la parte di tuo padre, che è il momento di rivendicare. Te ne accorgerai all'atto dell'inventario, anima candida!» Il monaco smaniava dall'impazienza per questo inventario, ma il principe invece pareva non avesse fretta di conoscere quel che c'era in casa. Non parlava d'affari a nessuno dei fratelli e delle sorelle, neppure al coerede Raimondo, il quale, da parte sua, pensava a tutto fuorché a chiedergliene conto. Thank you. Chiara e Ferdinando, Lucrezia, non ricordava una carezza della madre. Asservendo e maltrattando la figlia, la principessa non dimenticava tuttavia lo scopo principale da raggiungere, cioè di lasciarla zitellona in casa. Quando la vedeva allo specchio, le rare volte che la ragazza assisteva alle visite che venivano per la madre, questa esclamava: «Ma come sei brutta, figlia mia! Che disgrazia avere una figlia così brutta! È vero?» Così era cresciuta Lucrezia, costantemente mortificata e umiliata, segregata dal mondo meglio che se fosse nella badia, perché sotto la mano di ferro della madre. Invisa ai fratelli maggiori e agli stessi zii, tiraneggiata un poco anche da Chiara, che per avere 5 anni più di lei faceva la grande. Unicamente voluta bene e protetta da Ferdinando, col carattere del quale s'accordava molto il suo. Così accadde che quando i Giulente vennero a star di casa di rimpetto al palazzo dei Francalanza, donna Vanna disse alla signorina: «Vostra eccellenza ha visto il signorino Benedetto? Guardi che bel ragazzo!» Ella si mise a osservarlo dalla finestra e fu del parere della cameriera: «Vostra eccellenza non si è accorta come la guarda?» Lucrezia si fece rossa più d'un papavero e da quel giorno i suoi occhi andarono spesso al balcone del giovanotto. I Giulente, venuti circa un secolo addietro a Catania da Siracusa, appartenevano a una casta equivoca, non più mezzo ceto, cioè borghesia, ma non ancora nobiltà vera e propria. Nobili si credevano e si vantavano, ma questa loro persuasione non riuscivano a trasfondere negli altri. Da parecchie generazioni s'erano venuti imparentando con famiglie della vera mastra antica, ma avevano dovuto scegliere quelle ridotte a corto di quattrini, perché una ragazza nobile e ricca ad un tempo non avrebbe mai sposato un Giulente. Per giocare a pari coi baroni autentici avevano adottato tutti gli usi baronali. Uno solo tra loro, il primogenito, poteva prender moglie. Gli altri dovevano restar scapoli. L'abolizione del fidecommesso li aveva rallegrati, poiché in casa loro non c'era. Istituito il maiorasco, avevano tentato di ottenerlo senza riuscirvi. Nondimeno, tutto era andato ugualmente al primogenito. Don Paolo, il padre di Benedetto, era ricchissimo, mentre Don Lorenzo non possedeva un baiocco. Per questo, forse, trescava coi rivoluzionari. Ora, dopo la lettura del testamento, dopo le difficoltà opposte da Chiara, dal marchese e da Ferdinando alle sue subillazioni, il monaco si rivolse a Lucrezia. Aveva maggior speranza di riuscire con lei, poiché per l'amore di Giulente ella aveva interesse a ribellarsi alla famiglia. Lucrezia, che all'opposizione dei parenti si era impennata come ogni zeda dinanzi alla contraddizione ed aveva giurato a donna Vanna che avrebbe sposato Giulente a qualunque costo, udendo adesso il monaco parlarle dei suoi diritti, dimostrarle che ella era più ricca di quanto credeva, istigarla a far valere la propria volontà, gli dava ascolto, diffidente tuttavia, sospettosa di qualche raggiro. Così anche Lucrezia, dopo aver dato ascolto alle istigazioni di Don Blasco, non faceva nulla di quel che voleva lo zio. Anzi, una volta che costui fu più insistente, ella rispose: «Perché non parla vostra eccellenza con Giacomo?» Il monaco a questa uscita diventò paonazzo e parve sul punto di soffocare. Parlare a Giacomo, prendere le parti di quei nipoti contro quell'altro, era veramente impossibile a Don Blasco. Thank you.